Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? Siamo qui in questo lunedì 11 luglio, intanto i titoli. Volete sapere come va a tasse, come va con il fisco? Ecco dove il fisco locale pesa di più, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. In Campania e Lazio i livelli record, in Valle d'Aosta importo al minimo, e comunque poi vedremo questa classifica. Le banche invece ancora in prima pagina per il Corriere della Sera, il piano italiano sulle banche in crisi al vertice europeo. Per La Stampa invece un fondo europeo per le banche, è la mossa di Deutsche Bank, serve denaro fresco. Anche il Messaggero, banche, ora Berlino chiede aiuto. Per Libero la Merkel ci ruba le banche, l'Europa da cui scappare. Repubblica invece si tuffa sulla questione referendum. Referendum Renzi, testa a testa tra sì e no, indecisi in crescita, è l'ultimo sondaggio Demos. Per il giornale il governo inventa l'Italia razzista ai funerali di Emmanuel. Mentre il Fatto Quotidiano, due indagati PD per Camorra applaudono il sì della Boschi. Erano nel pubblico presenze imbarazzanti al comizio referendario della ministra a Caserta, così fa notare il Fatto Quotidiano. Voglio partire da questa notizia che riguarda il mondo della scuola, la trovo su Repubblica, e certamente questa notizia ha fatto suscitare, secondo me è una notizia ottima, ma ha lanciato subito il dibattito e ha messo sull'attenti i sindacati. Si sale in cattedra per competenza, la rivoluzione che divide la scuola. Corrado Zunino ne parla a pagina 15 di Repubblica. Dopo un anno e mezzo di scontri, alternati a indifferenze, il Ministero dell'Istruzione e i sindacati principali hanno siglato un accordo dai connotati potenzialmente rivoluzionari. Dice questo accordo, dal 15 settembre per gli insegnanti che hanno chiesto di cambiare istituto e i vincitori del concorso 2016, la sede non sarà più scelta dal docente in base al punteggio accumulato, cioè all'anzianità, ma dalla singola scuola in base alle sue necessità. E le necessità saranno riassumibili in quattro competenze rese pubbliche proprio dall'istituto che va a offrire la cattedra. Funziona così, le quattro competenze. Ogni preside di scuola, su una lista di 20-30 criteri nazionali decisi dal Ministero a giorni, sceglierà i quattro che servono per offrire la cattedra o le cattedre del suo istituto. Quindi, ricevute le risposte alla chiamata, il dirigente scolastico sceglierà il docente che può garantire tutte e quattro le competenze. Se questo docente non c'è, si offrirà il ruolo a chi potrà offrirne tre di competenze. Se due insegnanti saranno a parità di competenze, vincerà, qui sì, come ultimo criterio, l'anzianità più alta. Quindi l'anzianità viene considerata come criterio finale, non più come criterio base. E questo direi che è una cosa molto, molto positiva. L'accordo Ministero-Sindacati, vedremo un po' se ci sarà da dire anche su questo. Tra l'altro, a proposito di scuola, c'è questa notizia legata in qualche modo alla scuola, perché era la cosiddetta strage Erasmus, una cosa terribile, un incidente terribile, ricordate, che ha distrutto 7 vite italiane, oltre ad altre vite straniere di ragazze che erano in Spagna a fare l'Erasmus, erano andate a una festa, c'è stato questo incidente a marzo, incidente di autobus. Perché la vicenda torna sui giornali? Perché in questa strage, quello che viene definito da Repubblica lo schiaffo ai genitori, dal giorno la beffa dei risarcimenti tagliati, per il giornale anche qui il risarcimento beffa. In pratica l'assicurazione che dovrà risarcire con 70.000 euro ogni vita strappata da questo incidente, ha comunicato alle famiglie che da questo 70.000 euro saranno decurtati il 25% perché le ragazze non avevano le cinture di sicurezza. Insomma, concorso di colpa, anche se fanno sapere i giornali, hanno ormai accertato che è stato un colpo di sonno del conducente che si è assunto tutta la responsabilità ad aver creato questa situazione, però la beffa dei risarcimenti tagliati, non avevano le cinture di sicurezza allacciate e quindi la compagnia assicuratrice fa sapere daremo il 25% in meno del risarcimento per questo concorso di colpa. Ripeto, c'entra poco con la scuola, ma andava detta qui evidentemente. C'entra il tema della scuola, ha rilanciato quello del merito. Allora, quando si sente parlare di merito in Italia, a me viene veramente da imbracciare il fucile che non ho, perché ovviamente il merito in Italia è la cosa più ridicola in qualsiasi campo di cui si è sentito mai parlare. Non esiste alcun merito in Italia, si va avanti solo per spintarelle, amicizie, aiuti, amico dell'amico, paraculi, e si sa questa cosa. Però si fa un gran parlare del merito, il merito, la meritocrazia, che effettivamente è una battaglia fondamentale. Peccato che in Italia partiamo da sotto zero. E beh, oggi Il Giorno ha a pagina 2 e 3 uno studio di Banca Italia, è un'accusa vera e propria, è uno studio sulle pagelle ai dirigenti pubblici. Ma ripeto, del merito possiamo parlare in qualsiasi campo, qualsiasi. Però in questo caso Banca Italia si è concentrata sulle pagelle ai dirigenti pubblici. E che cosa si è capito? Soldi assegnati a pioggia, l'unico criterio è l'anzianità. Premi ai migliori maxi flop. Questo è un gran classico, Giovanni Rossi lo racconta a pagina 2 e 3 del Giorno. Manager pubblici, il merito non c'è. Nei manager pubblici, invece negli altri campi. Premi per tutti, basta solo l'età. Si racconta in questo studio di Banca Italia che, per esempio, nel premi ai dirigenti pubblici il possesso di un titolo di studio post laurea, la conoscenza delle lingue straniere, le esperienze lavorative pregresse non incidono sulla retribuzione di risultato. Cosa incide praticamente è solo l'anzianità. E c'è un'intervista allo scrittore Maurizio De Giovanni che dice: il merito in Italia è da sempre una chimera, è anche molto gentile. E lo scienziato Roberto Coppari che ha deciso di lasciare tutto in Italia per andare in Svizzera, dove è uno scienziato biologo, 45 anni, che pubblica su Nature, è coordinatore del Centro sul Diabete, docente a Ginevra, e dice: parliamoci chiaro, se fossi rimasto in Italia lei non mi avrebbe mai chiamato per un'intervista, dice a Francesco Gerardi che lo chiama, perché nell'università italiana il merito non c'è, comandano i baroni con le loro logiche di spartizione e potere, contano le amicizie giuste, se le hai le porte si aprono, io però mi sono ribellato al sistema. Comunque racconta del mondo universitario, ma ripeto, tutti i mondi professionali sono uguali e sono così. Allora, per quel che riguarda invece le unioni civili, sapete che c'è un grande dibattito, perché è stata approvata, dopo grandi anche tensioni parlamentari, la cosiddetta legge Cirinna, con la possibilità di unirsi in matrimonio, persone, non si può dire la parola matrimonio, diciamo unirsi civilmente, correggo, cancello, mi sono sbagliato, vai indietro Paolo Corleone, tanto non siamo in diretta, cancella la registrazione, togli la parola matrimonio e ripartiamo. Le unioni civili tra due persone dello stesso sesso. C'è la legge, ma non ci sono i decreti attuativi. Il caso è stato portato anche avanti da una coppia di omosessuali. Uno dei due nella coppia è molto malato, dice: ho un tumore, non so quanto mi resta da vivere, vorrei coronare questo sogno e sposare civilmente, unirmi, sposare tra mille virgolette il mio compagno. Renzi si è preso la briga, ha chiamato personalmente questa persona, ha detto: faremo in fretta. E allora oggi Il Messaggero racconta con Antonio Calitri a pagina 16: il decreto ponte per celebrare le unioni civili e dare attuazione dunque alla legge Cirinna è stato trasmesso al Consiglio di Stato. Se non ci saranno altri intoppi, da metà agosto diventerà operativo. Anche qui immagino, pensate bene la burocrazia italiana. È stato trasmesso al Consiglio di Stato, siamo all'11 luglio, se non ci saranno intoppi tra un mese sarà operativo. Questo per dire i tempi burocratici. Comunque, in questi decreti attuativi si specifica che non è ammessa l'eventuale obiezione di coscienza. Sapete che molti sindaci, soprattutto i sindaci della Lega, sono già sul piede di guerra a dire: faremo l'obiezione di coscienza. Invece in questo decreto attuativo c'è scritto che non solo l'obiezione di coscienza non è prevista, ma è stato bocciato esplicitamente un emendamento in tal senso di Forza Italia, così ricordano in queste ore a Palazzo Chigi, e dunque l'obiezione di coscienza è vietata. Sulla carta d'identità comparirà la dizione «unito civilmente». Questo succederà quando uno si unisce civilmente con una persona anche dello stesso sesso. Stato civile, unito civilmente. Va bene, siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. Per iniziare bene la settimana lunedì, voi che state andando a lavorare, Antonio Pitoni racconta, pagina 7, i costi della Camera ed è la solita cifra. Circa 1 miliardo l'anno, anche se dobbiamo attendere settimana prossima quando ci saranno i nuovi conti di quanto costa la Camera, anche se, fa sapere, la spesa è scesa da 986,6 milioni a 977,5 milioni, secondo le previsioni di prima stesura, ma bisogna attendere esattamente settimana prossima, quando ci sarà il bilancio di previsione 2016. La spesa comunque è stata ridotta dello 0,93%, magari poca cosa, 9 milioni e 100 mila euro in meno rispetto all'anno precedente, questo le previsioni, ma Renzi da Varsavia ha detto ancora: siamo il Parlamento più costoso dell'intera NATO. I questori della Camera dicono non è così, sta di fatto che ci sono i costi, i conti. Quanto costa la Camera? Il bilancio sarà calato dello 0,93%, ma costa ancora la Camera 1 miliardo di euro scarsi l'anno. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Anquo Alessandro Mila e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che danchi, schei? Va bene, allora, 7:35 minuti, cari ascoltatori, mandate le vostre sigle al 349-238-6666, state un po' poltrendo ultimamente. Allora, ripartiamo da che cosa? La vicenda di Fermo, i funerali di Emmanuel, ieri c'erano il Presidente della Camera Boldrini, il Ministro Boschi, Cecil Chienghe che sarà anche ai nostri microfoni alle 8:20. La di Emmanuel, la divisione uccide, malore per la compagna, questo è il titolo di Repubblica a pagina 8, tra l'altro, che fa sapere che Amedeo Mancini, colui che è in carcere per questo omicidio, piange. È entrato, fa sapere Repubblica, con uno smanicato con il logo di Forza Nuova sopra, ma si dice distrutto, anzi profondamente pentito. Se il Padre Eterno non mi avesse fatto questa mano così grande, ora non saremmo qui, ha detto piangendo durante la visita al medico legale. Evidentemente la mano grande è quella del pugno fatale. A proposito della dinamica, Il Giorno torna con Fabio Castori da Fermo a raccontare che spunta un'altra super testimone, così definita dai giornali, non si sa perché super, una testimone che dice che cosa? Beh, conferma l'aggressione ad Amedeo Mancini con un segnale stradale da parte di Emmanuel Chidi Namdi, il rifugiato politico nigeriano che poi è morto. Questa donna, dopo essere scesa dall'autobus, dice nel documento che è ritenuto attendibile dalla procura, ha udito delle urla provenire dalla via sottostante, dove poteva notare parlare animatamente due persone di colore e Mancini. Riferiva questa signora che il ragazzo di colore inizia a spintonare Mancini e, dopo aver preso un segnale stradale mobile, lo colpiva con il medesimo alle gambe facendolo cadere a terra. Dopo ciò il ragazzo di colore si allontanava, ma veniva raggiunto da Amedeo Mancini e tra due iniziava una scazzottata, al seguito della quale l'uomo di colore rovinava a terra. Questa è la versione, una versione che collima con quella dell'altra testimone, racconta Il Giorno. Il Giornale invece attacca dicendo è una passerella di Stato quella dei funerali, è la finta emergenza razzismo, e cioè Il Giornale accusa. C'è anche un editoriale di prima pagina di Alessandro Sallusti molto duro: non è vero che siamo un popolo di razzisti, scrive Sallusti, non è vero e non riusciranno anche se ce la stanno mettendo tutta, a farci sentire responsabili di tragedie private, collettive, nei confronti dei quali il paese Italia e gli italiani non hanno alcuna responsabilità. Tra l'altro Sallusti chiude con una chiosa molto polemica proprio nei confronti di Laura Boldrini. Scrive il direttore del giornale che Dio faccia Dio senza priorità, ma Cesare, cioè lo Stato, deve fare Cesare, deve dare ordine alle cose, come disse Gesù ai farisei, casta ipocrita di saggi, tutta forma e niente sostanza, i Boldrini dell'epoca. Qua da quindi della farisea alla presidente della Camera, così Alessandro Sallusti. Si difende in una lunga intervista Libero, intervistato da Pietro Senaldi, anche Calderoli, colui che è stato ritirato in ballo. Ricordate che insomma il paragone con l'orango e la chienghe, poi anche la causa. Per la verità a Libero non cita mai la chienghe in questa intervista. Evidentemente non vuole riscottarsi con la vicenda Calderoli. Il senatore leghista Roberto Calderoli dice: altro che razzisti noi. Quello di Fermo è un episodio singolo e, al di là del fatto che è sempre da condannare un insulto, nonché una reazione violenta ancor più quando questa può portare alla morte di un essere umano, va condannato. I veri discriminati, dice Calderoli, oggi sono gli italiani più deboli, non gli immigrati. Non aiutiamo i nostri poveri. Niente, si continua con questa contrapposizione da tifo da stadio. Sono addirittura partiti su Twitter quelli che io sto con Amedeo, come se fosse una partita di calcio. Che squallore. Va bene, in tutto questo noi parleremo di questo, parleremo anche di quello che sta succedendo in America, dove la contrapposizione bianchi e neri sembra, almeno nelle tensioni sfociate a Dallas, ancora più forte che da noi. Dopo le due uccisioni di afroamericani da parte della polizia, c'è stata peraltro un'altra uccisione, un altro omicidio il giorno dopo Dallas, e beh, c'è stato nel frattempo appunto questa esecuzione da parte di un cecchino nero nei confronti dei poliziotti bianchi a Dallas. 5 uccisi, alcuni feriti. Tra l'altro ieri, fanno sapere il giornale, è stato arrestato il leader dei Black Lives Matter. Questo signore che si chiama D'Ray McKesson, che è considerato in qualche modo per alcuni il mandante morale di questa esecuzione di poliziotti bianchi da parte del cecchino americano Mika Javier Johnson, che è stato poi ucciso nell'intervento della polizia. Lì le tensioni sono molto molto forti e parleremo anche di questo, anche di questo ovviamente. Mentre per quel che riguarda la politica italiana, beh, la politica italiana oggi sui giornali è soprattutto declinata al referendum, il cosiddetto referendum di ottobre, o forse sarà novembre, insomma un po' distante, però Ilvo Diamanti con Demos fa un sondaggio in pagina 1 di Repubblica, poi spiegato tutta a pagina 3, e fa sapere Ilvo Diamanti che nella consultazione politicizzata, cioè considerata molto politicizzata dagli italiani, i sì sono ancora avanti, ma sono al 37%, quando invece a febbraio il sì al referendum era al 50%. Quindi in questi mesi ha perso 13 punti in 4 mesi il sì al referendum, mentre il no è al 30%, dunque 37 a 30, con 33% di italiani che si dicono ancora indecisi. Io ai sondaggi credo sempre relativamente, ritengo che l'80% degli italiani non sa neanche di che cosa stiamo parlando, di questo referendum, almeno adesso, e siamo a luglio e mancano solo 2 o 3 mesi, e poi c'è agosto che si sa è un mese un po' così farlocco, la gente se ne va e pensa ad altro. Per quel che riguarda sempre la politica, c'è da registrare, secondo il Messaggero, movimenti o sommovimenti. Marco Conti racconta che Renzi potrebbe, proprio perché in difficoltà in questo momento sul tema referendum, cogliere quei segnali che gli ha lanciato Berlusconi. E il Messaggero fa tutto un lungo retroscena, pagina 7, per dire che il Cavaliere sarebbe pronto. di fronte a un segnale da parte di Renzi a far ripartire il dialogo e in qualche modo appoggiarlo anche pubblicamente, turandosi il naso e dicendo sì al referendum. Ci sarà questo segnale di riavvicinamento? Chi lo sa? Chi lo sa? In mezzo a questi retroscena, tutti un po' strani, tutti un po' di chiacchiericci, c'è una cosa certa, sicura, perentoria, indiscutibile: pagare le tasse, il fisco. Né vero Mauro Meazza? Oggi sul Sole 24 Ore c'è un'interessante, ancorché scoraggiante, classifica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma infatti, caro Alessandro, proprio da questa classifica del Sole 24 Ore prende le mosse la mia composizione in endecasillabi, essendo che è lunedì oggi. È lunedì, confermo. E infatti vado a leggere in endecasillabi, riferendo e poi rimandando naturalmente alla lettura del Sole 24 Ore. Vai. Lo fisco, che le tasche a tutti muove, lungo l'Italia prende e poi riprende. Ed oggi tu sul Sole avrai le prove di dove tassa sale e tassa scende. Ma certo non vorremmo noi passare come i denigrator che chiaman gufi. E allora ti spieghiam la cedolare, che sugli affitti paghi e non ti stufi. Avran l'ore contate li furbetti che timbrano, poi vanno a far la spesa. Già da mercoledì, con tempi stretti, poco potran portare in lor difesa. Se tu provassi poi fibrillazione nel legger retroscena e pissi pissi, l'inserto ti darà soddisfazione, l'esperto dico, e sai che già lo dissi. E in questa settimana decisiva per la cancellazione delle province, la tua attenzione resti sempre viva su norme che ogni dubbio ancora vince. Finito è l'europeo, dove i galli giocavano coi favori del pronostico, ma il Portogallo pestò loro i calli, a quello lo trofeo, per tutti il traffico! Uewe, Alessandro Milan, viaggia notizie! E va bene, allora, come diceva Mauro Beazza nei suoi endecasillabi, leggete Marco Biscella e Cristiano Dell'Oste oggi in prima pagina, poi pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, anche con commenti di Chiara Bussi e Salvatore Padula, per raccontare sul fisco locale dove si spende di più e dove si spende di meno. E allora in Campania e Lazio i costi più alti, mentre in Valle d'Aosta il costo più basso. Cioè, giusto per dire, in media, è uno studio di Banca Italia, in media la famiglia italiana ha speso 1983 euro l'anno, e per famiglia si intende una famiglia tipo due genitori, lavoratori dipendenti, due figli minorenni a carico, abitazione principale di 100 metri quadri, auto del segmento B, una Fiat Punto, giusto per dire, un reddito imponibile di 44.080 euro. Ovviamente lo studio è stato fatto per uniformare tutte le regioni e quanto è la pressione fiscale delle regioni su questo tipo, su questa tipologia di famiglia. Ebbene, sappiate che la media è appunto 1.983 euro di spesa per famiglia, ma con punte a Napoli 2.416 euro, in Val d'Aosta 1.100 euro, quindi diversità abbastanza clamorose. Se volete vedere ogni regione, la trovate regione per regione a pagina 2-3 del Sole 24 Ore sulle tasse locali. Eccolo lì. Invece le banche ancora in primo piano per molti giornali. Si discute delle banche e la notizia che viene diffusa da tutti i giornali, dalla Stampa, dal Messaggero, con ampia evidenza, è che ora anche la Germania, o meglio una banca tedesca, la Deutsche Bank, avrebbe chiesto, questo probabilmente facendo storcere molto il naso al rigoroso ministro delle finanze tedesco Schäuble, che avere chiesto che cosa? Un salvataggio di ricapitalizzazione con denaro fresco pubblico in deroga alle norme europee. Insomma, quello che in pratica si chiede anche in Italia, che ha fatto appunto storcere il naso alla Germania: non si può derogare alle regole europee. In realtà c'è la discussione sulla deroga al bail-in in caso di eccezionali eventi come è stato quello della Brexit. Si discute a livello politico europeo su questo. La notizia è che anche il piano europeo da 150 miliardi per salvare le banche è chiesto dal colosso tedesco Deutsche Bank, che vuole un fondo pubblico, e quindi questo cambia un po' la partita della discussione. Oggi invece sul Corriere della Sera trovate un fondo, l'editoriale di prima pagina di Ernesto Galli della Loggia, che io condivido dalla prima all'ultima parola. Riguarda noi, l'Islam, l'ennesima strage recente, quella di Dacca, il ruolo della religione. Io cosa ho detto uno dei primi giorni? Cioè, dire che non c'entra la religione, nello specifico la religione islamica, in questa vicenda è veramente una cosa incredibile. Eppure ci sono molti che dicono no, non c'entra niente la religione, chissà perché lo fanno. Comunque Ernesto Galli della Loggia, le parole che l'Islam non dice. Chissà se in quella tragica sera di Dacca qualcuno dei 9 italiani, mentre veniva torturato e si preparava ad essere sgozzato per non aver saputo rispondere a dovere alle domande di catechismo islamico, avrà pensato che i suoi compatrioti avrebbero preso l'impegno di vendicarlo. Penso proprio di no, dal momento che quegli italiani erano certamente esperti del mondo e della vita. Verso la memoria di quelle vittime, però, dovremmo tutti prendere almeno un impegno di serietà e verità. Dunque, parlando di ciò che li ha condotti alla morte, rinunciare al buonismo di principio, che ad esempio i maggiori quotidiani del loro paese, quasi per farsi perdonare l'audacia d'aver avanzato in un primo momento il sospetto che nella macelleria bengalese vedi mai la religione islamica c'entrasse qualcosa, che quei giornali, dicevo, immediatamente dopo si sarebbero sentiti in dovere, in omaggio a una presunta obiettività, di pubblicare articoli volti a rigettare il sospetto di qui sopra, giudicandolo calunnioso, frutto di ignoranza. Ebbene, che una cosa simile sarebbe accaduta, questo forse nessuna di quelle vittime è arrivata a pensarlo. E invece è andata proprio così. Anche questa volta è andata così, per la strage di Dacca, come in tante altre occasioni da anni, e non certo solo da noi. Da anni, infatti, terroristi islamici seminano dovunque la morte, ma l'opinione pubblica occidentale si sente puntualmente ripetere che la loro religione non c'entra nulla, il più delle volte con l'argomento che a tal punto il terrorismo islamico non c'entrerebbe nulla con la religione islamica, che spesso le sue vittime sono proprio gli stessi islamici. Come chi dicesse che poiché le guerre di religione nell'Europa del 5-600 vedevano dei cristiani ammazzare altri cristiani, proprio per questo la religione con quella violenza non avesse nulla a che dividere. E poi continua Galli della Loggia: che cosa dobbiamo chiedere all'Islam, qual è il ruolo dell'Arabia Saudita? Dovremmo una buona volta porre il problema dell'Arabia Saudita, scrive Galli della Loggia. L'Arabia Saudita, che è il vero cuore della violenza terroristica islamista, perché di gran lunga ne è il maggior finanziatore. E da anni tutti gli osservatori lo dicono e lo scrivono, sicché la cosa è in pratica di dominio pubblico. Le troppe parole che l'Islam non dice, questo e Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera. Va bene, lo abbiamo visto anche in diretta sul mio canale pubblico Facebook, siamo in diretta in questo momento. Vi voglio segnalare che cosa in conclusione, che c'è anche un'intervista di 2 pagine, una bella intervista di Alessandro Dell'Orto su Libero, sono 2 pagine, 12 e 13, è la prima intervista dopo 26 anni a Cesare Casella, ve lo ricordate, sequestrato per 15 giorni legato in auto, poi in un buco in Aspromonte in Calabria per 728 giorni, divenne famoso anche per la madre, Madre Coraggio, che andò in Calabria a protestare, a chiedere indietro il proprio figlio. Racconta con l'epatite tra topi e serpenti i miei 2 anni in una tana da bestie. L'intervista la potete leggere su Libero. Così come vi segnalo che, signori, potete prenotare, venerdì a Cerro Maggiore apre un ristorante molto particolare. Cerro Maggiore in provincia di Milano, lo racconta La Stampa, è il primo ristorante per naturisti, cioè dove si mangia nudi, Non potete neanche dire il conto ci ha lasciato in mutande. Nudi. Svesti, anzi, non svestiti, ma svestiti, usciamo. No, si dirà così. Svestiti, usciamo a cena nudi nel primo ristorante naturista. Ma vi rendete conto? Vabbè, insomma, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina del Corriere, la scelta di mostrare i figli, cioè quando si celebra i calciatori, eccetera, e Virginia Raggi, bisogna mostrare i figli oppure no? Ma chi se ne frega?